Vizi d'arte e vissi, rubrica di donne, vita e arte, a cura di Alessia Muroni. Questa sera, senza titolo, Francesca Woodman. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenute e benvenuti alla terza puntata della trasmissione Vissi d'arte, Vissi, l'appuntamento mensile con le arti visive e le artiste. Francesca Woodman nasce a Denver nel 1958 e muore all'età di 22 anni a New York nel 1981. Lascia centinaia di fotografie, in gran parte ancora inedite, e alcuni videotape. Un materiale di indiscutibile interesse, frutto di quasi 10 anni di lavoro ininterrotto, poiché l'artista comincia a fotografare, e già con piena cognizione di causa, all'età di 13 anni. È così che si spiega una parte del fascino del suo lavoro, simile in questo a un altro grande artista di precoce talento e rapida evoluzione, Arthur Rimbaud. I due cominciano a lavorare in età adolescenziale e la loro arte tocca il culmine e poi tace, una scelta consapevole e voluta da entrambi. Tuttavia, se Arthur Rimbaud opterà per il silenzio e l'autesilio in Africa, Francesca Woodman sceglierà la strada senza ritorno del suicidio. Ma il suicidio, gesto totale, totalmente enigmatico, un indovinello estremo e malposto, non può condizionare il nostro modo di guardare e pensare il lavoro della Woodman, perché questo lavoro è, al contrario, pieno di vita. Feel like you are my only man. Well, yeah, I'll give you nearly everything that a woman possibly can. Honey, you know I did. But each time I tell myself that when I think I've had enough, I'm gonna show you, baby, that a woman can't be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Break it. Take another little bit of my heart now, yeah, yeah, yeah. Have another little piece of my heart now, baby. Well, you know you got it if it makes you feel good. Oh, yes, indeed. You're out on the streets looking good, and baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Now, but now, but now, but now, but now, but now, but heal me when I cry. Baby, but I cry all the time, but each time I tell myself that I can't stand the pain. But when you hold me in your arms, I say it once again. I said, come on, come on, come on, come on, yeah, take it. Take another little piece of my heart now, baby. Può essere interessante fornire alcuni dati biografici sulla vita di Francesca Woodman, che comincia il 3 aprile 1958 e nella quale l'Italia gioca un ruolo importante. Infatti Francesca è figlia di due artisti, George Woodman, pittore e docente, e Betty Woodman, ceramista e docente, i quali negli anni 60 e 70 passano lunghi periodi di studio in Toscana, acquistando una casa ad Antella, in provincia di Firenze. A Firenze Francesca frequenterà anche un anno di scuola elementare. Possiamo immaginare un'atmosfera familiare di creatività e ricerca, in cui Francesca e suo fratello Charles, che diventerà videoartista, sono incoraggiati ad esplorare le proprie potenzialità artistiche. È forse nell'ambito di questo tirocinio all'arte che Francesca riceve in dono, a 13 anni, nel 1972, una macchina fotografica. È l'avvenimento che segna la sua vita artistica. Il dono della macchina fotografica apre a Francesca un mondo nuovo. La sua prima fotografia conosciuta è datata proprio 1972. La maggior parte delle sue fotografie è senza titolo, ed è per questo per inciso il motivo per cui ho così intitolato questa puntata, ma alcune di queste immagini recano didascalie e commenti scritti a mano dalla stessa artista. È lei quindi che intitola quest'opera Autoritatto a 13 anni. Vi sono già alcuni elementi base della sua poetica. Innanzitutto, la giovanissima artista è oggetto, soggetto e autrice del lavoro. Vale a dire che l'autoritratto diventa il genere fotografico per eccellenza della Woodman, che negli anni ne esplorerà linguaggio e possibilità espressive con una coerenza eccezionale. Poi, l'immagine presenta già elementi iconografici ricorrenti, il volto coperto, alcuni particolari ed elementi visivi importanti ma volutamente posti fuori fuoco, l'attenzione alla superficie delle cose e alla loro resa fotografica e la sapienza nel controllo e nella distribuzione della luce. In un'altra immagine invece scattata poco dopo, Francesca si muove in un interno di un'abitazione abbandonata. Vestita con un abito fiorato di gusto retrò, atteggiato in una posa simile a quella di un angelo leonardesco, indica una soglia, uno spazio oltre. Sembra una piccola Alice che indugi sulla soglia del mistero, e già in quest'immagine carica di tensione sotterranea c'è un'intera poetica d'artista. Thank you. Dopo il liceo, Francesca Woodman frequenta la Rhode Island School of Design finché non vince una borsa di studio per un anno a Roma. Prende casa in via dei Calzolari, vicino a Campo dei Fiori. Durante il soggiorno romano si lega d'amicizia con giovani artisti ed intellettuali, frequentando l'ambiente dell'ex pastificio Cerere, in via degli Ausoni. In quei locali industriali abbandonati hanno lo studio molti dei giovani artisti più interessanti dell'epoca, i quali lavorano fianco a fianco, con rapporti amicali però piuttosto che di collaborazione professionale e teorica, anche se a posteriori verranno indicati come il gruppo di San Lorenzo. Sono Nunzio, Bruno Ceccobelli, Gianni Dessì, Giuseppe Gallo, Piero Pizzicannella e Marco Tirelli. Isabella Pedicini ha raccontato in un bel libro intitolato Francesca Woodman, gli anni romani tra pelle e pellicola, edita da Contrasto, la frequentazione dell'ambiente artistico dell'ex pastificio Cerere da parte di Francesca. Qui l'artista trova sicuramente amicizie forti e stimolanti, ma si confronta anche con la dimensione straniante e onirica della città di Roma, perennemente in bilico sui confini di una temporalità ambigua, in cui passato e presente si mescolano incessantemente. La stessa dimensione di atemporalità che pervade le sue fotografie, strani luoghi in cui le cose accadono e non accadono, dove complesse narrazioni misteriose sembrano rimanere però in sospeso, continuamente. Pictures from a thousand years of battle, and I think it's such a bore. I walk New Orleans with a knife, like Nike hidden out of sight. But I'd be useless if they jump. Oh! A questo punto della sua vita, Francesca Woodman ha raggiunto una maturità formale già piena. Da questo punto di vista, la prima mostra antologica organizzata post mortem nel 1986 fu un vero e proprio shock per la critica e la comunità artistica americane. Una giovanissima e semi sconosciuta promessa della fotografia, morta precocemente, il cui lavoro aveva già raggiunto un simile grado di compiutezza. Vero è, come testimoniano i suoi amici, che la Woodman era una vera e propria stacanovista della fotografia. Ogni singolo istante della sua giornata, le occasioni di incontro, gli svaghi, gli avvenimenti più banali erano analizzati e setacciati alla ricerca di quello spunto che potesse fornire l'occasione di una fotografia singola o addirittura di una serie. Quasi che l'artista mirasse ad una totale compenetrazione di vita e arte. Tuttavia, nulla vi era di improvvisato o casuale nella sua arte, e anche questo è ben testimoniato. Ogni singolo fotogramma era progettato con disegni e appunti scritti, venivano eseguiti bozzetti e addirittura fotografie preliminari di prova che potessero aiutare a migliorare al massimo la resa finale. Una chiave di lettura questa che ci porta anche a comprendere meglio la scelta dell'autoreferenzialità totale dell'autoritratto. A chi le chiedeva del perché fotografasse essenzialmente se stessa, anche se usava a volte i corpi delle sue amiche come modelli, lei rispondeva «perché sono sempre disponibile». In questa risposta è il senso del perfezionismo di Francesca, che lavorava seguendo un progetto e non cogliendo semplicemente l'attimo dell'ispirazione pura. Sempre disponibile perché lei lavorava sempre e mirava la perfezione. Help them. doesn't help at all. 'Cause what you want is a cigarette and a thespian with a caravanette in Hull. Your life is never dull in your dreams. A pity that it never seems to work the way you feel. Life is never dull in your head. A sorry tale of action and the men you left for. Women and the men you left for. Intrigue and the men you left for death. Life is never dull in your dreams. A pity that it never works out, Mary. Life is never dull in your dreams. A sorry tale of action and the men you left for. Women and the men you left for. Intrigue and the men you left for dead. The men you left for dead. Care amiche, vi ricordo che siete in ascolto della rubrica Vissi d'arte, Vissi, dedicata alle donne artiste. La puntata di oggi è incentrata sulla fotografa americana Francesca Woodman. Perfezionismo, dunque, nella sua arte e progettualità lucida. Nell'unico libro d'artista da lei terminato e databile al 1980-81, intitolato Some Disordered Interior Geometries, vediamo come l'artista osi l'objet trouvé, vale a dire un vecchio quaderno di esercizi di geometria trovato nella libreria Maldoror di Roma, come base apertamente simbolica per una serie di fotografie abilissimamente studiate, in cui il suo corpo si inserisce all'interno di un gioco di panneggi e stoffe dalle geometrie e dai ritmi rigorosi. La geometria analitica del quaderno diventa quindi punto di riferimento per una riorganizzazione del sé vissuto attraverso l'esperienza e la percezione dei sensi e dei tempi. Ho usato non a caso il termine objet trouvé, un concetto di matrice surrealista, l'oggetto o l'insieme di oggetti rinvenuto casualmente che apre le porte della percezione ad una surrealtà del bello. Quel bello, per intenderci, esemplificato nella celebre citazione da Lautréamont, bello come l'incontro fortuito su un tavolo di dissezione di una macchina da cucire di un ombrello. Il surrealismo gioca un ruolo molto importante nella matrice culturale di Francesca Woodman. Nato in Francia per impulso di André Breton e della sua cerchia di artisti amici, il surrealismo infatti continua ad agire come un fermento vivo nel corpo e nel cuore della cultura occidentale fino ai nostri giorni, e ben al di là dell'intenzione bretoniana. Non è forse un caso l'attrazione sviluppata sui fotografi da un movimento che vede alcune delle sue opere più significative realizzate sotto forma di fotografia, da Man Ray a Dora Maar a Claude Caron. Quanto a Francesca, in una lettera all'amica tedesca Edith Schloss, conosciuta e frequentata a Roma, così scriveva a proposito del suo lavoro e del romanzo surrealista Naja. Vorrei che le parole avessero con le mie immagini lo stesso rapporto che le fotografie hanno con il testo in Naja di André Breton. Egli coglie tutte le allusioni e dettagli enigmatici di alcune istantanee abbastanza ordinarie ed elabora delle storie. Io vorrei che le mie fotografie potessero ricondensare l'esperienza in piccole immagini complete, nelle quali tutto il mistero della paura o comunque ciò che rimane latente agli occhi dello spettatore uscisse, come se derivasse dalla sua propria esperienza. Mistero e latenza sono protagoniste delle opere di Francesca Woodman, almeno quanto ne è protagonista lei stessa. Presenze che danno un sapore gotico e fantasmatico a molti dei suoi lavori, in cui la smaterializzazione del corpo e la sua interazione con lo spazio degli oggetti che lo popolano creano una straordinaria tensione, eclatante e minimalista al tempo stesso. Bound and turned aside. Demons and harbors come through. 10,000 may fall at your side, 10,000 are at your right hand, but to you it will not come near. 1,000 may fall at your side, 10,000 are at your right hand, but to you it will not come near. Mistero e latenza caratterizzano ad esempio la serie di scatti che Francesca ha genericamente intitolato House e Space, realizzate a Providence, Rhode Island, al ritorno da Roma, o quelli invece senza titolo e realizzati a Roma. Nuda o vestiti in abiti dal sapore antico, Francesca entra ed esce da porte, finestre e spazi, scorre nell'intercapedine di un cammino, dorme in armadi e scomparti di vecchi mobili, si affaccia allo specchio come Alice, striscia intorno agli angoli o scivola sotto la carta da parati, come nel racconto gotico La camera gialla di Charlotte Perkins Gilman. Il suo entrare e uscire dentro e fuori attraverso lo spazio e la materia è al tempo stesso ironico e carico di tensione, giocoso e straniante, sensuale e innocente. Questo fondersi e confondersi con il corpo ricorda un brano Dall'occhio e lo spirito di Maurice Merleau-Ponty. Visibile e mobile, il mio corpo è annoverabile tra le cose, è una di esse, è preso nel tessuto del mondo e la sua coesione è quella di una cosa. Ma poiché vede e si muove, tiene le cose in cerchio attorno a sé. Le cose sono un suo annesso o un suo prolungamento, sono incrostate nella sua carne, fanno parte della sua piena definizione e il mondo è fatto della medesima stoffa del corpo. E il corpo, dunque, è la vera base del lavoro di Francesca, che agisce le sue fotografie, ne fa una performance. Ciò che però differenzia il suo lavoro dalla body art è che, se nella body art il complemento, il momento performativo dell'azione è il fulcro dell'opera e il mezzo fotografico e video è il complemento di registrazione, nel lavoro della Woodman i rapporti e le proporzioni si invertono. La performance è ciò che permette di arrivare allo scopo dell'immagine prodotta dal mezzo fotografico o video. L'estrema complessità e sapienza dell'arte della Woodman sembrano confliggere con gli eventi della sua vita privata. Una giovane e promettente artista, ricca di immaginazione e di idee, colta e circondata di amici che la ricordano come sensibile, generosa di sé e della sua arte, determinata. Tendente alla depressione, forse, ma sempre in movimento, sempre con lo sguardo puntato avanti. Sarebbe sbagliato leggere le sue opere in una chiave negativa e pessimista, influenzata dal suicidio. Le sue fotografie sono invece caratterizzate da umorismo, da vivacità di spirito e di intelligenza, da un'acuta curiosità nei confronti del mondo. Eppure, a 19 anni, così Francesca scriveva ad un suo amico romano: «È il mio compleanno e mi sento già molto vecchia». La fame di vita consuma la vita a volte e, come in una sua fotografia, ad un certo punto, Francesca Woodma sceglierà di uscire dalla vita il 19 gennaio del 1981. Siamo giunte alla fine del nostro incontro. Un grazie speciale a Nancy Sciuto per l'ausilio tecnico e musicale. Abbiamo ascoltato brani di Janis Joplin, Warpaint, Amanda Palmer, Belle and Sebastian, Charmin Hostess. Nell'augurarvi buona serata, vi ricordo l'appuntamento del prossimo venerdì 21 dicembre. La serata che sbilembia San Francesco di Sales 1B, dalle ore 21, la festa della fine del mondo con DJ Pink Law. Noi ci troveremo di nuovo qui a Vissi d'Arte, Vissi, l'anno prossimo, martedì 22 gennaio 2013, alle 20:15, per una puntata dedicata alla pittrice russa Marie Barkisheva. A gennaio riprenderò inoltre le conferenze dedicate all'artista alla Casa Internazionale delle Donne. Potete trovare informazioni sul sito della casa o sul mio blog alessiamuroni.wordpress.com. Buona serata!